Non riesci ad andare allo sportello sociale? Se hai problemi e non riesci ad andare allo sportello sociale negli orari di apertura, puoi telefonare per chiedere informazioni al numero di telefono che trovi qui sotto. Controlla i giorni e gli orari di apertura dello sportello sociale qui sotto. Puoi anche mandare un'email all'indirizzo che trovi qui sotto.